quella sardista la sta dicendo. Chissà chi riusa. Ho capito chi è. Che ne siamo invece per la risposta pronta a chi la offendesse. chissà. Ma devo assieme la girata di debito, chissà, secondo me si visita che lì tu di vino mi ha dato. No, è di quelle prevenute. Ma quando sei in internet che pone i video e cose, ti devi sempre aspettare qualcosa da qualcuno, a chi? Il debito della gente oramai a ognuno di sé al suo, a vedere cosa risponde, cosa non risponde. Quindi, avevamo messo un link, avevano mi messo dov'era, che sono arrivati, hanno salvato dei grani, non so, guinini, mari, anche 12 grani, tutti hanno scritto che li arregano ancora di questa gente, no, e la giustizia di Sara che... E le orate sarebbero stati felici di accoglierli nel loro habitat. E avevano scritto un po' di cose, avevano scritto ma te le studi le cose o ma così da di natura. E niente, ho risposto due volte, da voi non ho risposto bene più. Da voi natura sono entrato all'igiene che vedono i commenti, tipo mio, e il mio l'ho tolto e detto a me di rompere i miei cazzi. E da buona deve mettere niente. Ma no, allora un discorso è che in Stati Uniti tutti i disegni di chi si che gli danno di tutto e che in Italia non venuta, da voi scrive una cosa lì a Baldini di Durassina, ruba di Gesù e sei maro, compreso. Ma ne beh, io non li comprendo gli italiani. E loro ci sfottono, perché nell'intervista io ho sentito. Come mai si è venuto in Italia? Perché in Italia ci danno i soldi se sono lavorati? Ed è vero perché già, cavolo, ridatemi, allora. Ridatemi. Non mi dimostri, stanno a chiedere di sì. C'è il conflitto. Sei mancato di radio per più volte. E allora ho schiacciato male. Ho detto c'è il conflitto perché quelli buttano la roba da mangiare e chi ne ha bisogno non gliene dà. Ma io si chi anda nella carta se mi lasci in Romagna. Non visti io, ci vendono la roba. Mi danno la roba e ce la vendono ad altri, capito? E quindi ma non fa la vita di un pareggio. Come sei? Ti date i pantaloni, i botti, chi seguito, non li piace, ne dai bene a Ili, dai così si fanno un po' di denaro, non hai compreso. E non solo, si fanno 5 milioni, pigliano più di uno che travaglia in fabbrica o travaglia in anche Luca. C'è qualcuno che vuole entrare, va? Luca, buonasera. Ciao Luca, mi hai sentito? Mica c'è Sorso, vediamo un po' come arrivi lì a Sorso. Prova 1-2 per Sorso, mi ricevi? Com'è? Ciao Luca, ben ascoltato, aspetta che sollevo appena il volume che ce l'ho basso, e stamattina mi vende pluvi, registrazioni, radio eccetera eccetera. Beh, ho sentito che stamattina sul 12 stavano provando in FM, in AM eccetera. E niente, io ero alla Dinamo e me ne sono tornato in malumore a che abbiamo messo. E ho visto che c'erano tutte le macchine al quadrato. Peccato, però meritavano gli altri perché sono stati tutta la partita avanti e quindi c'è poco da protestare. Con chi hai giocato? Napoli. Bene, bene. E beh, questo controllo non glielo dai, non lo sappi. Ma io come controllo non è che vi rubo più di tanto, che l'SM per me non è che pensi sia preciso, Quello del garage se funziona bene è precisissimo. Ma non è preciso il mio, perché stavamo facendo dei confronti e non... Cioè, per esempio, se tu mi siamo arrivi di noi e magari sì, magari 9,5 compresi, oppure sì, magari anche di più, e quindi non lo so, quindi però lo sento bene, a Lucca lo sento bene, là. Allora, io già avevo anche il Kenwood, sia col Kenwood che con Garage il segnale era uguale, preciso e niente. Speriamo che con questa bufera in arrivo che non si porti via tutto. No, se li ha accorato bene, no. Cioè, se c'è 120 li metto a dura prova. Cazzo, più collaudo di quello, ma non credo comunque che arrivi a una velocità del genere, anche perché è dato giù nel Cagliaritano, perché Scirocco è la parte sud-est della Sardegna, Rubiglia in pieno, noi dovremmo essere già scremati, magari farà vento a 70 km orari, che comunque non sono pochi. Quello non sarà mai strano. No, stavo leggendo che il vento è da sud-est, Scirocco. Vento caldo, Speriamo che non faccia danni, dai, che non c'è un allarme falso, dai, speriamo che vada tutto bene. Vabbè, io ho tirato il mio 9, quindi non dovrei avere problemi. No, ma non i vasi bufere ai noghi, perché stavo guardando la mappa meteo e noi siamo nella categoria GBD normale, l'altro è sulla costa di... allora, sulla costa del Nuorese, da Siniscola in giù, che potrebbe fare maltempo, ma dove siamo noi no. E comunque la Stravuccia vira lo vento a 100 e a 120 orari, Burinoga a 110, e non ha fatto niente, anzi ne ha cucciuto i muri, i righici gazzetti che hanno invato in Serra Ronga, i noghi in sus. Addirittura, e non c'era ne a sé. No, praticamente hanno fatto i quattro muri laterali già senza legarli, perché dice che dovevano fare i pilastri per poi legare il tutto e fare la cordonatura di cemento armato su, perché erano tre casette che ospitavano i motori del depuratore che devono riazionare a sorso. E quindi dici che non è arrivato a tempo a finire i gazzetti, e ad infatto due di da buio ha fatto un vento e ve la bici è tipo un gazzetta di bambino che la bici. Allucinante. Quindi deve passare tutto il drama di tornare a capo. Vai. Avanti. Mi sto ascoltando e mi sto controllando, mi sto portando avanti per il lavoro di domani. Ascolta allora. Allora che va a te, ascolti, e che la devi parlare. C'hai ragione, ma per il lavoro che faccio io siamo in crisi adesso con le navi, perché vedrai che le navi salteranno le corse o non partono da Olbia per andare verso Livorno, e quindi tutti i rimorchi ci rimangono a terra e sarà un problema per noi. Dai, stavo scherzando comunque, ti capisco, dai. Avanti già. Ehi, agappa, quindi Luca lavori in zona portuale, lavori? No, azienda di trasporti di mezzi pesanti. Beh, ma casa non ne ho fette. Siamo a casa. Ah, siete a casa, capito, questa è una parte di strada. No, poco fa sì, ma adesso sono tornato prima. Poco fa sono uscito, ma sono baracchino, 71 in macchina. Ah, ok. Dobbiamo possibile ascoltare il sorso. Gaffa che ti ascolti, e tu a me mi ascolti. Anzi, era in punta Gudumonte, si disiani. Ti ascolto, anche l'altro amico se mi ascolta. Sì, a me certo che ti sento anche forte. Come te parlate in due. E a me non mi va da bere nessuno. Dicevo che io ti sento forte, ti sento bene, arrivi chiaro. Dove sei? Dove ti trovi tu? Fine di Viale Italia. Ah, ok. Vabbè, sono qua al monte. Vabbè, anche tu arrivi benissimo qua. Ma sei mezzo pesante? No, sono a casa, che ieri sono riuscito a piazzare l'antenna, che finalmente è arrivata, e non sono più con la magnetica in terrazzino. Adesso esco meglio per quello. Ma arrivi benissimo qua al monte, sì, perfetto. Anche, guarda, se hai l'antenna, come dici, arrivi abbastanza bene. Diciamo che l'antenna è all'aria, e svetta bene, quindi è libera da ostacoli. Sei 9,30 qua, non è che sei basso, arrivi benissimo, radio perfetta, normale. Secondo me mi ascolti amplificato, perché io ho un amplificato. scala, siamo vicini di casa. E quando ieri mattina sto a casa tua già, adesso mi sono avvicinato da ieri con la vetrina del palazzo tuo, sono passato a portare la commissione e poi sono andato via. Basta lasciare, ciao, prendi il caffè. Oh, già, ho fatto, sai, le mie ore quali sono, no? Circa 10 ore di lavoro, sono arrivato lì alle 2:15, gli ho dato la commissione e me ne sono andato a casa perché devo farmi qualcosa da mangiare, fare la doccia e riposarmi. Che poi riposarmi, mi sono riposato, boh, serve, no? Che dovevo fare roba, boh, non mi ricordo adesso. Come? Vai, mi hai dato un brulino di mammo tu. Hai finito? Caldarella. È vero, e beh, Claudio. Vabbè, chi c'è? Io, Gianni, amico di Sorso, e l'altro amico di Sassari, non ho capito come si chiama. Comunque da questa parte Luca, avanti, amico di Via Italia. Il tuo nome attivo qual è? Nome è Luca anche io. Ah, perfetto, dai. Il mio omonimo, sì, dai. Colpa di babbo di mamma, allora. Va, Carlo, senti? Sì, io lo sento, arriva leggermente più alto di te. Arriva un bel forte adesso, prima lo sentivo basso. Ciao Gianni. No, io chi non sento è Sampi, cioè chi Sampi che non mi sente, io già ritengo. Io lo sento benissimo, lui che non sente a me. Vabbè, sono andato a salutarlo e sto andando in cucina. Un abbraccio a tutti e buon fine domenica. Vai già. Ciao, la è troppo comoda da portare a casa, dai. E non bene ancora, non mai ci danno. E il letto rimbiazzi, ma hanno tante bandrone. Avanti, Luca. E io prima avevo l'impegno di portare il bassotto e adesso il bassotto non c'è più e mi è rimasto solo in gola. E cosa vuoi fare? Già, io adesso mi 5 minuti, ma neanche. Siccome ero lì dai cinesi a pranzo, mi sono crepato a pranzo. E ho detto tanto non c'è, no? Però mi voglio mangiare due carciofi crudi e me li mangio. Pensimonio, mi faccio e me li mangio. Poi mi lavo i denti e me ne vado a dormire, perché domani mattina la sveglia suona alle 3, ne ho 2, 3:30. Poi alle 3:30 sono costrettissimo ad alzarmi, altrimenti non faccio tardi, è un casino. Capito? È così. E domani finisco sempre alle 14 di lavorare. E a casa arrivo alle 14:30. Dipende, 14:20, dipende, da. Dai, già te ne fai le tue ore anche tu, dai. E butto la macchina presto, io me la salvo alle 5:30, alle 5:30, quando trovo alle 7, per prepararti tutto quanto, e ci vuole il tempo, puoi viaggiare 20 minuti a Porto Torres, e quando trovo alle 7 era così. Lo so, già, io devo decidere di fare solo un lavoro, due, poi ho dei lavoretti da fare, l'elettricista, sai, devo sistemare un'antenna TV, come faccio? No, cazzo, così è proprio a spararmi in testa. Tu dirai, ti fai qualche soldino, ma chi se ne frega, la salute è più importante dei soldi. Vabbè, esci, quando ce la fai, non fai da buio, molli piano piano, prima uno, dopo l'altro, e non ne fai più, ma sai. Purtroppo tu fai un lavoro che ti devi alzare troppo presto, quindi ti sballa tutta la giornata, già si stanca e cosa, poi fai altri lavori, un casino. Lo so, prima come facevo solo l'ottica in panificio, uscivo alle 9:30, avevo diciamo tempo di farmi i miei lavoretti. Dalle 9:30 in poi fai 9:30 fino all'1, 1:30 ci sta, poi tempo di riposare c'è, di farti qualcosa da mangiare, quello sì, ma adesso come faccio? Alle 2:30 minimo ci vuole un'oretta, preparati il pranzo, io mica lo trovo il pranzo pronto, e se mi metto a mangiare cavolate, non faccia. Lo faccio, magari mi metto a mangiare tramezzini, poi ti metto a mangiare un panino, un panino oggi, un panino domani, poi tutti i dolci, sai cazzo quanto ho preso? 85 kg, mi. 85 kg, sto mangiando troppe porcherie, devo stare attento, sto sgarrando troppo. Non ci sei più là, Lu? Sì, faccio panificio con la pasticceria. Ah, stai facendo anche pasticceria adesso? Sì, da Vanali sono, cla. Da? Da Vanali. Ah, ma il panificio lo stai facendo sempre? Sì, faccio la notte stai in panificio, faccio giù come 9:20, 9:30. Poi 10, entro di là e esco alle 2. Vabbè, buono. Dai, dai, che sei giovane tu. No, però c'è ingrassante il troppo, non mi inviati così. No. Preparati il sugo dalla sera, dalla notte, quando arrivi 10 minuti ti curi un po' di macacciutta come facevo io. Quando ero in trasferta ti mangi un piatto di pasta, non panini. Ecla, però quando non hai voglia, è così. Ti va una doccia, ti sdrai, capita che mi addormento verso le 3:30, 4, mi sveglio alle 8. Poi di nuovo mi devo alzare, preparo qualcosa da mangiare, è la stronza l'idea. Ma già cenato, comunque. È un casino, Cla, il tempo è poco. Tu, da lunedì a sabato sono così. Lavoro, mangio e dormo. Cosa posso? Non c'ho tempo. Infatti devo prendere una decisione, adesso vediamo se mi propone Vanali le 7 ore, qui entro più tardi, cioè mi alzo più tardi, anzi no, bugia, sì, mi alzo più tardi la mattina, invece di alzarmi alle 3, alle 4, 3:30, 5, di là entro alle 7, dalle 7 alle 14, se mi propone questi orari qua, me vado lì, avrò soldi in meno, ma me ne frega. Sempre consegna. Ah, Lu. Dimmi, Cla. Ho detto Angelo, sempre c'è. Angelo, chi è? No, non c'è più da un... Fatelo Natalino. Ah, lì lavorava. Ehi, lavorava lì. No, non c'è, no. Siete giovane, c'è, Cla. È una gran pasticceria Vanali, a me piacciono molto le paste di Vanali. Ilaria usa le paste di Vanali, di secchi. Va bene ragazzi, dai, stavo aspettando a chiudere che sono già le 8:10. Anche noi adesso ceniamo, poi mi guardo un po' di TV e ciccia. Agguantatevi voi che c'è un avvertimento per domani mattina, traffico di vento sino a 100 km orari di nuovo. E acqua a tutto andare. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani, ciao ragazzi. Ciao Cla, grazie per il meteo. È pericoloso, nell'Oliastra, Basso Campidano, c'è veramente è tutto chiuso domani, scuole, uffici, tutto chiuso perché c'è questa perturbazione di passaggio che dovrebbe durare lunedì e martedì, ma da paura, soprattutto lì nell'occidentale sarda, capito? Qua passa forte, però poi cammina, ma là è stabile, dura un sacco, quindi bisogna stare molto attenti. Infatti ho ritirato tutto dal giardino, io c'avevo ancora tutti i divanetti e cose in veranda, li ho tolti perché già me ne ha rotto due di poltroncine. E basta, va bene, dai, quindi agguantatevi voi, diretti diranti, mi raccomando, un abbraccio a tutti, QRT, ciao Claudio, avanti. Ciao Claudio, buona serata. Ciao Claudio, buonanotte, saluta Anna. Ilaria, ciao Claudio, prossimo. Ciao, grazie Lu, ciao Luca di Via Vitalia, saluto anche a te da Claudio Sparviero, ci sentiamo alle prossime. E diciamo che come stazione mi chiamo Floppy e così non andiamo in confusione. Floppy? Come i vecchi floppy dischi, sono Gulecciuleo e mi uso floppy. Io vicino. Vabbè, i floppy dischi li ho conosciuti, se chiedi ai ragazzi di adesso non lo sanno cos'è. Perché non li hanno usati. Io addirittura usavo il Commodore 64 come computer. Il primo computer che ho avuto è stato quello. Io ho avuto quello, ho avuto il Commodore 128, ma prima avevo avuto il VIC-20, e il periodo nostro era, io sono del 69, come anno. Hai 10 anni in meno di me. È il periodo di quei computer, io stavo entrando alle industriali e poi ho fatto informatica, per cui ci abbiamo anche studiato su quelle macchinette. Figurati, lo so. Purtroppo i periodi cambiano, purtroppo oddio, in certe cose va anche meglio, ma in certe altre preferisco i vecchi tempi. Avanti, ma come al subito, sparito. No, già, non sono sparito, stavo mandando un messaggio, non c'è l'arrico di sorso. Chi? C'è, sappi, avanti. Difendici. Gaffa, no, mi dico la sigaretta a kiwi. Comunque, io giocavo il primo gioco tipo come tutto Commodore 64 e prima avevo l'Atari 7000 e sì, mi pare si chiamava adesso. E poco era folle. Comunque l'amico di che hanno detto che è del 79, io gioco del 77, abbai da un po', e so a tipo Barbanera gioco io, tutto canto fuso, però con lo spirito giovane. Negativo, io sono del 1969, che è l'anno più pornografico di tutti gli anni, 69. Ah, 69, gaffa Roger, allora sì che sì. E un amico c'ho, anzi un paio di amici ho di quell'anno lì, e sono più fusi di me, è meglio rimanere sempre con lo spirito giovane comunque. Ha fatto testa a coda. E allora, un lavaggio completo. Luca. Ma questi del 69 amici tuoi sono di Sosso? Ehi, a Fernando, lo conosci a Fernando Romai Maris? No, conosco uno dello 69 in Sosso, che fa in Giulio pittore d'assaggio. Sì che lo conosco a pittore d'assaggio, Roggio di cognome. Eia. Ma quello no, mi pare che sia in Germania che suono. No, ha fatto finta l'assessore ai lavori pubblici al comune di Sorso un po' di anni fa. L'aveva fatto finta l'assessore. Allora già ho capito che è una volta lo viene qui in Castiglio Muro. E poi l'amico l'altro che lo chiamano onorevole della cultura che vuole entrare. La politica è tutto un gioco di potere. Sì che lo conosco, è un grandissimo amico perché sono amici con mio padrino, perché mio padrino c'ha più o meno quell'età lì, ed erano grandissimi amici, sono tuttora grandissimi amici e lo conosco anche di persona quello che stai dicendo tu. È un tipo un bel togue. Mi sembra che non si è mai sposato però. No, è sposato, c'ha figli pure. Io lo conosco da quando ero ragazzino perché aveva la casa al villaggio Grigio in Placamona. E allora magari è sposato, c'ha figli, ma non lo so così impara la moglie. Comunque già ho capito che andava bene. Ma come ti arrivo io? Bene mi senti? Sì, io ti ascolto bene, discretamente bene. Andava bene, dai. Quindi se abiti vicino a Gianni, al Monte? No, io abito vicino al distributore Eni di via Budapest, alla fine di via d'Italia. Ah, scusami, stavo confondendo con l'altro tuo nome, dai. E che vi chiami di tutte e due Luca, mi sembra, io ho capito. Hai capito bene. Già lo so dov'è via Budapest. E più di una volta mi sono passato in giro. Allora, quello che abita vicino a me è Luca Manicomio. Lui è, come si chiama? Floppi. Oh Gianni, è famosa Luca Manicomio, visto sopra avventuriero. Anche casinista. È meglio, ci potrebbe chiamare Luca. San Camillo. Una cosa me ne scende, ma com'è la piscina? Burisi che nella banana. E la gente, buoni di un gas come, non si sa mai ne va a cabatterra. Lui è in Sisucinchi. Ma la puttana della Milena, se piandeni. Che cosa già, non ho capito bene. Se la puttana della Milena, se piandeni, oppure se è secca. No, è sempre andene, infatti quando c'era la restrizione d'acqua, vedi a vedere, di voglio che vira in questa puntana, e volevano collegare non so cosa, ma la piana un invaso, non so cosa, chi vedeva a fare 24 ore su 24, ed è anche potabile che hanno fatto Sassari, da tutti gli altri campagni della zona. Guarda, c'era una brutta dietro, vince c'è il battuto e bidone ne sono fugato alla gente che era distratta. Gloria! Speriamo che non abbiano più tutta accorti. Se te lo so con i segni che vedi. A chi mi dire che cade chi si mi so ma che a chi mi dire che basta di lei. Oh, non stai uscendo. Già. Io entro un attimino per salutarvi, passo in QRT e ci sentiamo domani sera se coincide con tutti. Buona serata a tutti, buon rientro al lavoro e buon inizio settimana. Altrettanto, ciao, buon lavoro anche a te, dai, ci sentiamo. Alla prossima. Avanti Luca. Ciao Luca, buonanotte, alla prossima. Dai, anche io con questo passaggio chiudo, che vado a mangiarmi qualcosina, ma qualcosa di leggero e vado a dormire. A domani, ciao a tutti, ciao, già riprendi tu, ciao a tutti. Ciao a tutti, correte anche per me, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni di Sorso. Caffarogero, allora salutoni a Luca 1, a Luca 2, a Gianni Doppio Malto, ma saluta ma Tyson, ma si scende a me, come si intende Tyson si scende. E niente, buona ricarica, buona cena quando la farete. Ci risentiamo nelle prossime. Andate, mi ha fatto piacere passare un po' di tempo con voi e niente, alla prossima, ciao ciao a tutti. Ciao ciao Gianni, buona serata. Ciao Antonio. Chi è? E io entro, Fabio. Voglio sul sacco. Ah, pensavo che era una degli segreti in gol. No, ma visto, chiudete, sto portando giù a Taggio, ma Tony, sto portando giù a Taggio, anche se è dormito va dicendo e scendiamo giù, perché sennò poi mi sveglia dopo che vuole andare. Ciao, ciao, ci sentiamo, buona nottata. Capo, no, io mi stavo ascoltando poco fa, ero appisolato e domani si trapacca di nuovo. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao ciao, sentite dalla voce che siete un dormito. Vengo molto male. Vino e birra.